Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Bellezza delle piante. I soli esseri viventi in questo universo che non producono rumore né rifiuti. Mario Andrea Rigoni. Buona domenica, bentrovati al Giardino Segreto. Oggi il verde dentro le città lo portiamo attraverso un progetto messo a punto da Enea, l'Agenzia per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che consente di riqualificare i capannoni dismessi, magazzini, container, edifici abbandonati, pensate a quante ce ne sono nelle nostre città, trasformandoli in serre verticali in grado di produrre verdure, ortaggi, erbe aromatiche, con un minimo consumo di acqua e di spazio e senza uso di pesticidi. Un progetto, come fa sapere Enea, in grado di riqualificare intere aree periferiche degradate con una nuova destinazione d'uso a fini produttivi. L'agricoltura, insomma, attraverso queste vertical farm può entrare in città, come ci conferma Gabriella Funaro, ricercatrice Enea e responsabile dei progetti di vertical farming. Esatto, per il futuro ci sarà sempre meno disponibilità di terre da arare perché le città aumentano a dismisura, perché la popolazione tende a lasciare la campagna per spostarsi in città e quindi ci sarà sempre più necessità di produrre cibo per il sostentamento dei suoi abitanti. Quindi come fare senza terra? Abbiamo detto, potremmo ipotizzare di utilizzare vecchi edifici dismessi all'interno dei quali inserire un nuovo tipo di agricoltura, ovvero l'agricoltura fuori suolo, senza necessità di terra, e costruire e coltivare su piani sovrapposti, in modo tale che anche un piccolo spazio può replicarsi per molti ettari. Come possiamo chiamare questo tipo di coltivazione? Vertical farming? Allora, il vertical farming è il sistema di agricoltura fuori suolo, in idroponica, appunto in assenza totale di terreno, con pochissimo utilizzo di acqua, e il fatto che sia su piani sovrapposti, appunto, viene chiamato vertical farm, le fattorie verticali. Enea è un po' che ci sta lavorando. Se non sbaglio, il primo esempio è stato presentato Expo 2015? Esatto, Enea è da prima del 2015 che sta studiando nuovi tipi di agricoltura e per l'Expo abbiamo progettato il primo prototipo italiano di vertical farm, che poi è stato esposto nel Future Food District per 6 mesi e che ci ha consentito di mettere a punto il sistema di vertical farm che in Italia fino ad allora non era mai stato, diciamo, realizzato né studiato. Piani sovrapposti, ambiente chiuso completamente, in questo caso andrebbe bene anche un edificio senza finestre perché non ce n'è bisogno. Ma certamente sì, perché questo tipo di agricoltura fuori suolo in sistemi chiusi non ha necessità della luce, anzi la luce solare è sostituita dall'illuminazione artificiale a LED che praticamente riproduce il ciclo della fotosintesi clorofilliana di cui necessita la pianta per crescere, e quindi possiamo assolutamente coltivare nel buio totale, anche in cantina volendo. Non c'è terra, c'è torba pressata quasi sempre? Sì, c'è un materiale inerte che può essere torba pressata, fibra di cocco, zollette sono, all'interno delle quali viene inserito il seme e poi vengono sistemati queste piccole zollette su dei bancali, uno sopra l'altro, a distanza abbastanza ravvicinata, perché ovviamente in questo tipo di agricoltura non possiamo pensare di coltivare il frumento, bensì ortaggi, foglie, erbe aromatiche, piccoli pomodori, cetrioli e quant'altro, insomma comunque piante abbastanza basse. Quindi diciamo che queste zollette assorbono l'acqua dai bancali che vengono allagati, quest'acqua ovviamente contiene delle sostanze nutritive perché servono alla pianta per crescere, e poi tutta l'acqua ricade, diciamo, in vasche dalle quali riparte il ciclo, quindi è un ciclo chiuso, tutta l'acqua viene recuperata e rimessa fino alla totale crescita della pianta, che normalmente si aggira intorno, diciamo, alle 3 settimane. È un ciclo chiuso, quindi immagino che non ci siano parassiti, insetti, e quindi non c'è bisogno di pesticidi, non c'è bisogno di queste cose. Sì, questi bancali vengono proprio inseriti all'interno di questi sistemi chiusi che non hanno assolutamente alcun contatto con l'ambiente esterno, pertanto non possono essere sottoposti a attacchi di insetti, di parassiti, dunque non abbiamo bisogno di nessun tipo di prodotto chimico e quindi il prodotto che ne deriva, che ne viene fuori, è un prodotto di altissima qualità. Non servono prodotti chimici, non serve molta acqua soprattutto, anzi ne serve pochissima rispetto all'agricoltura tradizionale e serve anche meno concime. Certo, il concime è dato da queste soluzioni nutritive, ma non dobbiamo utilizzare fertilizzanti come normalmente in pieno campo o nelle serre tradizionali. L'acqua, è per un chilo di lattuga usiamo un litro massimo di acqua contro i 46 litri che occorrerebbe nella coltura tradizionale. Un risparmio estremo c'è da dire. Esatto, sì. Proprio un risparmio estremo e in più non ha scarto, il prodotto che deriva da queste colture non è un prodotto che quando si raccoglie deve ancora essere ripulito da eventuali scarti, foglie malate, è perfettamente sano. Sembra non ci siano controindicazioni, ma poi l'insalata che noi produciamo, il basilico che noi produciamo in queste vertical farm, come sono? Sono buoni? Sono eccellenti, hanno le proprietà organolettiche, le proprietà qualitative, olfattive, direi addirittura migliori di quelli che derivano dalle colture tradizionali, proprio perché non hanno alcun tipo di prodotto chimico, ecco. Quindi sono prodotti eccellenti dal punto di vista proprio anche salutistico. Siamo pronti a coltivare in città? Certo, l'energia ci vuole, l'energia elettrica. Ecco, questo è diciamo il neo più grosso di questi vertical farms, proprio perché dovendo climatizzare questi ambienti chiusi, perché la pianta ovviamente deve stare a una certa temperatura, avere sempre una certa umidità per poter crescere e soprattutto dobbiamo utilizzare l'energia elettrica non solo per pompe e clima ma anche per gli stessi LED, è ovvio che abbiamo dei consumi e dei costi di energia piuttosto elevati e in Italia, ahimè, visto che l'energia costa molto, è sicuramente uno degli aspetti più critici per far sì che insomma questi sistemi si diffondano con una certa rapidità, per dire negli Stati Uniti dove l'energia elettrica costa poco non hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Ma energie rinnovabili? L'energia rinnovabile è un'ottima possibilità, quindi se abbiamo possibilità di usufruire di energia prodotta da fonti rinnovabili, da un fotovoltaico, da una biomassa, da quant'altro, certamente questo sarebbe molto importante per abbattere proprio i costi di gestione della vertical farm. Le vertical farm si possono inserire in edifici in disuso, in edifici anche con vincoli artistici, perché poi in realtà fuori non succede nulla. Esatto, l'importante è che il contenitore sia dal punto di vista statico in buone condizioni, poi all'interno di questo contenitore sia esso un bene di patrimonio architettonico vincolato alle belle arti oppure un tristissimo capannone dismesso, non ha importanza perché il sistema viene proprio inserito all'interno senza minimamente dover deturpare appunto la parte esterna, la facciata, anzi più è cieco meglio è per noi, meno interferenze ci sono con la luce esterna, sicuramente più facile è il funzionamento del nostro sistema nel suo complesso. Si possono anche utilizzare ad esempio dei container? Sì, noi infatti come Enea abbiamo proprio studiato anche la possibilità di avere una vertical farm ridotta, facile da installare ovunque, proprio inserendo questo stesso sistema all'interno di un container che può essere anche un container di questi, come dice lei, dismessi, di cui i nostri interporti sono pieni e magari riuscissimo ad utilizzarli per produrre cibo. E all'interno di questi container non sembra, ma riusciamo a coltivare addirittura più di 30.000 piante all'anno, 30.000 piante di, non so, lattuga, di basilico, che non sono pochi, cioè ogni tre settimane all'interno di un container riusciamo a raccogliere 2.500 piante, che è già interessante, nonostante sembri così piccolo. Dove si sta coltivando in questo modo in Italia adesso? In Italia adesso, ahimè, non si sta ancora coltivando, nel senso che l'idroponico in sistema chiuso, in vertical farming, non è ancora penetrato, diciamo, non è ancora utilizzato. Abbiamo l'idroponico tradizionale, nelle serre tradizionali, questo sì, ma non le vertical farm. Stanno nascendo alcune esperienze, Firenze, che penso l'anno prossimo forse già vedremo sul nostro territorio, ma ci auguriamo che il progetto Rigenera, di cui ci stiamo occupando e che sta partendo proprio nel Veneto, ci dia modo di fare veramente il primo intervento, soprattutto in un edificio appunto dismesso, per far vedere quello che si può fare, come si può recuperare un patrimonio che sarebbe molto, molto interessante per poter produrre cibo per il futuro del pianeta. La cosiddetta agricoltura urbana, abbiamo bisogno proprio di trasferire all'interno della città quello che una volta era normale averlo, perché le nostre campagne, i nostri paesi erano circondati da campi e là si coltivava. Oggi invece il cemento ha portato via spazio prezioso per le colture, dobbiamo in qualche modo riuscire a trovare sistemi nuovi per poter avere il cibo fresco a chilometro zero, anzi come si dice a centimetro zero, e quindi questa agricoltura urbana, l'agricoltura appunto 4.0, è proprio quella di cui stiamo parlando, e queste vertical farm possono sostituire quello che una volta erano i campi degli abitanti, ecco. Si comincia in Veneto, chi volesse avere delle informazioni, dove il sito dell'Enea? Il sito dell'Enea, senz'altro io sono disponibile anche per qualsiasi altra informazione, si comincia in Veneto, ma contemporaneamente si può cominciare ovunque, ecco, chiunque può essere interessato, siamo ben lieti di poter collaborare, dare informazioni, perché questo tipo di nuova agricoltura del futuro inizi veramente a penetrare nel nostro paese. Dottoressa Gabriella Funaro, grazie mille. Grazie a voi. Eccola, questa sciocca felicità, con le sue finestre bianche spalancate sull'orto. Sergej Yesenin. www.enea.it per tenere sott'occhio il progetto Rigenera, che appunto sta partendo in Veneto, promosso da Enea insieme tra gli altri a Idromeccanica Lucchini, Coldiretti Padova, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo. Ci sentiamo tra un attimo con il Giardino Segreto. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Il giardino segreto. Bentornati, abbiamo parlato delle vertical farm di Enea, serre verticali a ciclo chiuso in grado di produrre in città verdure e ortaggi con grande risparmio di acqua e di spazio e consentendo la riqualificazione di edifici dismessi e di periferie degradate. Adesso un piccolo ecosistema autosufficiente dove si crea un ciclo vitale perfetto, ce lo portiamo a casa attraverso un piccolo giardino sottovetro chiamato terrarium. Il terrarium, composizione di piante che vive in un vaso di vetro con coperchio, è sempre più di moda. Alla Rinascente di Milano, per fare un esempio, al piano dedicato al design, ce ne sono moltissimi. Io però sono andata a parlarne con chi i terrarium non solo li vende, ma li produce e insegna agli altri a crearli, oltre che a curarli, attraverso corsi e laboratori. E sto parlando dell'agronoma Giulia Tamai, di Dot Room, negozio milanese non di fiori, ma di piante particolarissime. Sono dei piccoli giardini sottovetro, io li chiamo. Sono dei piccoli ecosistemi che vivono in maniera autosufficiente all'interno del contenitore chiuso. Ovviamente ci sono terrarium senza coperchio, in quel caso lì si tratta di piante succulente, piante grasse in generale. Viceversa, nei contenitori chiusi si mettono delle piante che in natura vivono in ambienti molto umidi, quindi foreste tropicali. Io normalmente utilizzo le fittonie, i ficus repens, ficus pumila, asplenium, selaginella, che fanno parte della famiglia delle felci. E poi quando riesco a trovare dei piccoli ficus ginseng utilizzo pure quelli. Sono ovviamente piante che in natura, bisogna considerare, amano ambienti umidi. Non occorre andare a prendere la fittonia, che da noi non cresce spontanea ma cresce nelle foreste pluviali, basta anche andare a prendere l'asparago. L'asparago nei nostri sottoboschi cresce spontaneo. Una piantina di asparago messa dentro a un terrarium cresce e vive tranquillamente, come anche la felce e il muschio. Si crea una vera e propria composizione verde. Esatto, poi uno si può sbizzarrire come meglio credere, mettere altri elementi della natura, come possono essere dei sassi, del muschio, anche dei pezzi di corteccia, volendo, e crea il suo piccolo giardinetto. E all'interno del nostro vaso di vetro noi abbiamo un ciclo vitale completo. Sì, perché all'interno del nostro contenitore si ricrea il ciclo dell'acqua, per cui l'acqua che traspira dalle foglie, che evapora dal terriccio, dal muschio, condensa sulla parete del contenitore, quindi il vaporacqua torna allo stato liquido, scivola pian piano lungo la parete e va a bagnare le radici. In ogni caso non è un ambiente ermetico, risente delle condizioni ambientali circostanti, quindi consiglio sempre, quando si compra un terrarium si porta a casa, o quando si fa il terrarium, perché io propongo anche i corsi di terrarium, uno va a casa col proprio terrarium appena fatto, deve monitorarlo. Non è una cosa impegnativa il terrarium, però in ogni caso va guardato, e allora bisogna semplicemente controllare che faccia la sua giusta condensa, che non ce ne sia troppa. Se ce n'è troppa bisogna aprire un pochino il coperchio, far uscire il vaporacqueo, viceversa se tastando magari pian piano il terriccio, il muschio, sente che è molto asciutto, bisogna dare poca acqua. Quindi noi versiamo l'acqua non con uno spruzzino? No. L'acqua di solito non bisogna darla al terrarium, se non quando le condizioni ambientali sono molto estreme, come può essere la nostra estate qua a Milano. Allora in quel caso lì io consiglio, tenete il contenitore aperto, senza coperchio, e bagnate il terrarium poco alla volta, con un piccolo annaffiatoio, un piccolo bricchetto, facendo molta attenzione, ricordandosi che l'acqua che si dà al terrarium non si può più togliere, quindi bisogna dargliene veramente piano piano. Quindi l'acqua solo d'estate, no? Ovviamente dobbiamo ricordarci che nelle nostre case ci sono i riscaldamenti accesi. I riscaldamenti accesi che quindi seccano l'aria, magari uno inavvertitamente lo mette troppo vicino a una fonte di calore e quindi può anche risentire dell'aria eccessivamente secca. Io consiglio sempre, monitoratelo a casa vostra, trovate la giusta posizione. Una volta però trovata la giusta posizione, vedrete che dovete intervenire veramente molto raramente. Qual è la giusta posizione e qual è la luce? Perché poi la luce è fondamentale. La luce è assolutamente fondamentale, non va messo ovviamente alla luce diretta, perché altrimenti la temperatura che si crea all'interno del vaso diventa troppo elevata, perché il vetro fa da lente. Va tenuto in un ambiente fresco, lontano dai termosifoni, lontano dalla luce diretta della finestra, ma in un ambiente luminoso. In un ambiente con una buona luce diffusa. Una mensola di fronte alla finestra, ma lontano dalla stessa. Brava. Esatto. Questa è luce diffusa, esatto. Che poi è quella che preferiscono le piante in generale. È quella che preferiscono le piante in generale, è vero. E avere l'accortezza anche ogni tanto di ruotare il terrarium. Proprio perché se magari si mette a ridosso di una parete o su una libreria, è ovvio che la luce poi arriva solamente da un lato e poi anche le piante all'interno rischiano di crescere tutte storte. Perché le piante seguono la luce. Assolutamente. Quindi sì. Girando il terrarium di un quarto di giro, non so. Un quarto di giro, sì, va benissimo ogni tanto, e così si favorisce una crescita omogenea delle piante al suo interno. Va bene, condensa eccessiva, un po' di panno, asciughiamo la nostra parete interna, sennò basta togliere il coperchio un paio d'ore e poi possiamo di nuovo godere di questo terrarium. Che cosa può regalare il terrarium rispetto a una pianta? Rispetto a una pianta tradizionale, il terrarium secondo me regala una bella sensazione, nel senso che è un paesaggio. È un piccolo paesaggio. Osservare un terrarium permette di entrare all'interno di questo piccolo giardino. È un modo proprio rilassante di avere del verde in casa. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Chi vuole un'alternativa alle piante in vaso può scegliere il terrarium, il giardino sottovetro che abbiamo appena presentato, oppure buttarsi sugli ineffabili kokedama, le piante cioè inserite in una poetica e tutta orientale sfera di muschio. Anche queste crea e insegna a produrre Giulia Tamai. I kokedama vengono chiamate, tradotte dal giapponese, perle di muschio. Sono piante che vengono svasate, al posto del vaso si crea una sfera di muschio che le avvolge, sia da appendere sia da appoggiare. Sono orientali, giapponesi, esatto. Quindi sono molto antichi, immagino. Sono molto antichi, vengono chiamati comunemente il bonsai dei poveri, in quanto nascono da un contadino giapponese che però non aveva la possibilità di comprarsi dei bei contenitori e quindi si inventò questo modo per abbellire le proprie piante in casa. In sostanza il vaso è fatto di muschio. Il muschio ricopre semplicemente un impasto fatto di vari substrati, tra cui lo sfagno, che è un muschio a fibra lunga che ha caratteristiche igroscopiche, nutre anche la pianta, la torba di sfagno, sempre la kadama, che non è altro che della pillo lavico, quindi un materiale poroso che conferisce quindi porosità all'impasto, e poi del terriccio. Viene infatti tutto questo impasto e plasmato intorno all'apparato radicale della pianta, dopodiché il tutto viene avvolto dal muschio. Una volta in casa nostra il kokedama, come lo manuteniamo? Allora, il kokedama richiede particolare attenzione, in quanto avendo una superficie totalmente esposta all'aria si disidrata con più rapidità rispetto a una pianta in vaso. Per cui bisogna fare due cose. Uno, irrorare il muschio regolarmente, tenendolo umido. E due, bagnare la pianta. Io sconsiglio di immergere la pianta totalmente in una bacinella, come molti dicono di fare, in quanto poi diventa un po' scomodo, il muschio si appesantisce, diventa giallo. Quindi io cerco sempre di semplificare al massimo la manutenzione delle piante. Quindi io ho delle spruzzette con un beccuccino che utilizzo per bagnare la pianta dall'alto, oppure dico semplicemente prendete un bricchetto anche con un beccuccio e piano piano date acqua alla pianta. Bisogna fare un po' attenzione, bisogna dare un giusto quantitativo d'acqua sufficiente, e ovviamente anche in base alla tipologia della pianta che viene ospitata all'interno della sfera di muschio. Sì, quindi le regole non sono generali, perché ogni kokedama può avere una pianta di tipo diverso, per cui... Esatto, è semplice, basta solo capire come fare e avere pazienza, perché l'acqua deve scendere piano piano, quindi non è una cosa molto rapida bagnare un kokedama. Certo che questa sfera di muschio da cui si partono queste foglie è direi zen, è molto particolare, quindi qualche cura in più la merita. Sì, direi di sì. Quanto dura un kokedama se lo curo bene? Se lo curi bene può durare anche degli anni, tranquillamente. È un verde che dura, però è difficile che duri così tanto. Di solito dura qualche mese. Allora, per far durare, ma anche per imparare a creare un kokedama, seguiamo Giulia Tamai. Per conoscere il suo lavoro, dotroom.it. Un tocco di natura rende affine il mondo intero. William Shakespeare. È tutto per oggi. Aspetto spunti e consigli via email al giardinosegreto@radio24.it. Piante e fiori e la radio tornano domenica prossima alle 15.30 o quando volete, se scegliete il podcast, disponibile al nostro sito www.radio24.it già subito dopo la messa in onda. Grazie a Paolo Corleone in regia, a voi per l'ascolto. Una buona settimana da Roberta Pellegatta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.